YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube. Anche questo fine settimana l'appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche questa settimana un po' di perdibile della rete TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web. Daniele, siamo alla undicesima puntata, giusto? Sono sì, mi piace, diciamo ricordarlo. Agli ascoltatori, perché io nomino sempre i file delle scalette così, undicesima puntata. Voi potete scriverci ai nostri account Twitter @MartaCagnola @DiBellasio e con l'hashtag cancelletto RadioTube, e se ci riuscite, appunto, dentro tutta questa nebbia ci scrivete e ci segnalate i video. Ma noi abbiamo un sacco. Di video che abbiamo già visto per iniziamo per con le classifiche di fine anno, quella roba di pazzesca, dai, ci siamo, mancano pochi giorni, ma sui giornali ci sono già qualcosa, inizia già, c'è di tutto, cioè sì, sono classifiche di qualsiasi, i gatti più visti nelle pagine interne dei siti però solo di cucina. Beh, intanto Facebook ci ha messo del suo, hai giocato con Year in Review, mi hai detto subito. Mi sono visto molto flemmatico, ma sai che ho avuto un anno così sobrio, così adulto? Io ho usato poco Facebook, invece è questa nuova funzione che ha implementato in questo periodo Facebook, basta cliccare e ti dice com'è stato il tuo anno, insomma, rivedendo ti fa vecchi la post. Sintesi con le foto, cosa hai fatto, e poi ti dice se vuoi aggiungi una cosa che tu ritieni importante, però io ho lasciato quella sintesi lì perché mi piacevo nella sintesi di Facebook. Mia sintesi di Facebook era hai usato poco Facebook. Ah, c'era scritto così? No, però in realtà perché tu cose. Preferisci Twitter? Perché io preferisco Twitter. Io preferisco Twitter per le cose un po' più di lavoro e Facebook per le cose un po' più private, non sono molto originale. Va bene così. Altri social, YouTube sì, ormai che è quello, un social. Noi ci chiamiamo RadioTube. Siamo vagamente ispirati. Vagamente ispirati a YouTube, ha pubblicato anche qui le classifiche intanto dei 10 video più importanti del 2013, cioè quelli più virali, quindi proprio cosa nostra. Sì. Ci sono le classifiche dei video musicali più visti, le classifiche dei video virali in generale, ci sono quelle italiane, ci sono quelle globali. Io partirei con il video più visto e chissà che cosa ci dice di questo 2013. Vediamolo insieme alla radio. Meow, bird goes tweet and mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes croak and the elephant goes toot. Cioè tu hai un video, hai un volto smarrito su questo video. Quasi. Mi c'entra mica? No, non c'entra mica, però anche Valeria in regia è stupita, non l'hai mai visto? No, sei voleva l'unico. Espellermi dallo studio, ma non lo so, ma uno di questi 10 io l'avrò visto? Sicuramente sì, allora questo è... Hai presente il coccodrillo come fa? Sì. Non c'è nessuno che lo sa. A Rocco piace da me. Ecco, al tuo bimbo piace il coccodrillo come fa, e questo invece è cosa fa la volpe. Ah, è un video virale. Ma c'è miau, dice a un certo punto. Certo, perché il gatto fa miau e la volpe come fa. È un duo norvegese, Ylvis, i due fratelli Bard e Vegard Ylvisaker, che si pronuncerà in tutt'altro modo, ma purtroppo non conosco il norvegese. E questo è il video più visto. No, ma scusa, ma io penso che a volte gli internauti si mettano d'accordo per far vincere apposta delle cose che non hanno senso. E per mettere in crisi te, perché non l'hai visto? Sì, allora, sì, io tutto qui il ho mondo, tutta una specie di flash mob collettivo per far vincere Fox. Al secondo posto, però forse l'avrai visto, l'Harlem Shake, anche perché dai, molti calciatori si sono messi a imitarlo, questo ballo, l'Harlem Shake. Sì, sì, ah sì, quello di Metta Cassano. Ecco, al terzo, un video che a me fa morire dal ridere, di un tizio che imita come mangiano gli animali, però non possiamo farvelo vedere alla radio perché in realtà di audio non ce n'è. Non c'è niente. Però è esilarante. E al quarto posto sai cosa c'è? No, questo sono preparato. C'è Wrecking Ball. Esatto, c'è io la parodia. Io te l'avevo segnalato io, di la verità, soltanto perché mi dicevano, ma tutti imitano questa qui sulla palla che distrugge le cose. Ecco, è al quarto posto dei video più visti, è stato postato da pochissimo. Nella versione parodia? Parodia. Nella versione parodia, essendo stato postato pochissimo tempo fa, evidentemente quindi è andato eravamo fortissimo. Sul pezzo. Eravamo sulla palla da demolizione. Esatto. Ma allora, abbiamo citato il tuo bimbo, sì. Che però è maschio, quindi maschio. Probabilmente tu non sei preparato sul video più visto in Italia, che è questo qua. Esa es la canción que canta Violeta, donde besa a ese chico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer. Questa qua è il fenomeno totale no, d'Italia. Questo qualcosa lo so, qualcosa perché lo sai, quando anche sono se nel hai traffico, un maschio. Sì, perché quando sei nel traffico vedi le pubblicità degli autobus. Ah, è certo, quella, no? È lei, Violetta. Violetta. Violetta è, Violetta è il fenomeno assoluto. E poi magari farà la fine di Miley Cyrus. Magari vedremo anche lei tra qualche anno su una palla da demolizione. Perché sai, poi però queste non ragazze... parte così, no? No, no, no. Per ora è uno di questi telefilm amatissimi dalle ragazze. Ed è il video più visto. Ma come si chiamano Italia? Questi telefilm del mondo, cioè dintorni? Ma no, non ha un nome specifico. Poi purtroppo non è più il mondo, cioè, perché quelli erano ai tempi nostri, ai no, noi. Ma non c'è più neanche quello. Sai che andrò in edicola, a chiederlo. Però il target, come dicono le persone che parlano bene, è quello lì qualche sì. anno dopo. Qualche anno invece dopo. Per quanto riguarda i video musicali più cliccati, nel mondo c'è ancora Psy con un'altra canzone, non il Gangnam Style, ma c'è sempre Psy. E invece in Italia trionfano Fedez e Francesca Michielin, vincitore di X Factor 2 anni fa, con la canzone Cigno Nero. Secondo Marco Mengoni con L'Essenziale, e tra poco torneremo a citarlo. E poi ancora Psy e Pink, ma c'è anche in classifica ancora Miley Cyrus. Rocco, 5 anni, canta la canzone L'Essenziale di Mengoni a memoria. Vabbè, ne parliamo tra poco, dobbiamo interromperci per qualche istante e poi saremo ancora insieme con Radio Ciao Tube. Marco. Radio Tube. Rieccoci insieme con Radio Tube. Io ho promesso a Daniele Bellasio che avremmo parlato di nuovo di Marco Mengoni, che piace particolarmente anche la nostra Valeria. Insomma, sono l'unica fan di Marco Mengoni qui a Radio Tube, insieme a Rocco. Quindi io e Rocco canteremo L'Essenziale così a squarciagola. Ma torniamo a parlare di rete e di televisione per una notizia particolarmente importante. Daniele, hai letto questa seria? Serissima. Sì, noi spesso facciamo gli stupidi, ma questa è davvero seria. Sì. Perché pare che si stia profilando una rivoluzione, una possibile rivoluzione nei conteggi degli ascolti. Sì. Noi parliamo spesso della legge di Freccero. Giusto, la legge di Freccero, la ricordiamo per chi non la... Più si twitta, meno si vede in TV. Cioè, una trasmissione molto twittata non è detto, anzi è molto probabile non sia, una trasmissione molto vista. Forse perché sono pochi quelli che la nicchia. Però l'idea è quella di in qualche modo misurare il nuovo audience, cioè l'audience dei social network. Non si chiama ancora così, ma si chiamerà in un modo un po' diverso, no? Più finanziario quasi. Si chiamerà in un modo un po' diverso, lo farà la Nielsen, e noi lo scopriamo subito grazie al General Manager Sales and Media Solutions, l'ho detto bene, di Nielsen Italia, Luca Bordin. Buonasera Luca. Buonasera. Buonasera a voi. Luca, che cosa succederà? Che cosa misurerete? Voi già misurate l'audience della televisione con dei parametri un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati con Auditel. Voi che cosa, cioè Nielsen, che cosa già misura negli Stati Uniti e che cosa sta per misurare anche in Italia?

Radio Tube. Ma come passa il tempo quando ci si diverte e Radio è già Tube, quasi Natale tipo ma anche quasi il 2014, siamo lì l'epifania. E soprattutto è già quasi finito Radio Tube. No dai, che peccato, abbiamo solo pochi minuti e abbiamo solo pochi argomenti l'argomento da trattare, l'argomento della settimana diciamo, e l'abbiamo lasciato in fondo. Ma sì, perché no, ma insomma un argomento serio, sì, che cioè, ci fa preoccupare, ci fa insomma tante domande ci fa porre. Però effettivamente che c'è molta rete, viaggia rete, tanto diciamo. In rete, viaggia in televisione e in rete, e quindi proprio RadioTube è cosa nostra. Beh, io ripeto intanto i nostri account di Twitter, perché visto che noi non abbiamo un'esistenza, non abbiamo una vita sociale, siamo sempre lì su Twitter, quindi ci potete sempre trovare: chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio, hashtag con le dita lo faccio RadioTube. Eccolo là. Sai di cosa parliamo? Sì, no, parliamo di quello che sta succedendo nelle piazze. Nelle piazze, è nato le in rivolte, rete, non è proteste, nato in rete, non si sa. Non si sa chi sono, non, chi non sono, si chiamano Movimento dei Forconi, non si chiamano Movimento dei Forconi. Si chiama Coordinamento 9 dicembre, Ne ha parlato molto, la televisione ha cercato di spiegare e di raccontare. Beh, in parte l'ha anche chiamato un po', alcune trasmissioni sono un po', diciamo, contemporaneamente il racconto, causa-effetto, e io so che tu ti stai riferendo in particolare a una trasmissione, ad alcune trasmissioni. Collegamento diretto non si può fare, però ci sono delle agora televisive per quelle voci. Che hanno dato molto spazio a un certo tipo di protesta, tra queste potremmo citare la gabbia. Certo, senz'altro. Possiamo citare la gabbia perché gabbia, Forconi, tutto un po' un linguaggio un po' così energico, ha dato spazio a certi sentimenti e adesso cerca anche di spiegare quello che sta succedendo. Differenze comprese tra le varie anime, come si dice in queste circostanze, di questo movimento. Allora, ascoltiamo un estratto dall'ultima puntata della gabbia, un ospite di Gianluigi Paragone che cerca di spiegare chi sono queste persone che stanno protestando. Vogliamo identificare con il popolo dei Forconi. Noi siamo gli italiani che sono scesi nelle piazze spontaneamente. Non abbiamo nessun colore politico, non rappresentiamo nessuna sigla. Noi siamo persone. Io sono un imprenditore, ci sono imprenditori, avvocati, commercianti, disoccupati. Abbiamo detto basta, è ora di fare qualche cosa. La politica non sta dando risposte da anni. Come nasce? Nasce tutto sul web. Ragazzi, ci sono qua persone che ho visto per la prima volta stasera. Tutti, io non conosco nessuno qua dentro. Ci siamo tutti conosciuti sul web, ci siamo conosciuti sui presidi. Abbiamo deciso di scendere in piazza perché la politica non c'è. Oggi è stata votata la fiducia al governo Letta, la gente che è in strada questa fiducia non gliela dà, non gliela vuole dare, non gliela dà la fiducia a Letta, gliela se la sono presa, nessuno gliela data, allora state in piedi. Nessuno. La rete li ha fatti incontrare, la rete si muove, la rete reagisce via social, la televisione cerca di spiegare e non è facile. No, anche perché la rete è appunto un magma, è un caos, c'è tutto il contrario di tutto, e quindi anche questo movimento, che io ci credo in parte sia nato in rete. Sì, sicuramente. E forse anche in parte si rifà ad esperienze per certi versi con le dovute differenze che abbiamo visto in giro per l'Europa, ma soprattutto in giro per il Medio Oriente. Ovviamente ciò che nasce in rete ha anche una coloritura completamente diversa a seconda dei casi, delle zone, tra Milano, tra il sud, a Milano in un certo modo, al sud in un altro modo. È facile fare il coordinamento di differenze e quindi è molto difficile darne una descrizione precisa. La televisione forse può aiutare a farlo. Non è facile, come dicevi tu. Peraltro la rete crea miti e distrugge miti. Velocissima, impietosa. Perché in rete tutto è veloce e tutto è virale. E questa settimana l'animale più virale è stato un giaguaro. Sì, il giaguaro nel 2013 è tornato spesso nella politica italiana. Non è uno che veniva smacchiato, una Jaguar. Una Jaguar. Un'auto. E non stiamo facendo pubblicità, ma è diritto di cronaca, no, diciamo. No, perché cosa è successo? Che è finito il comizio in Piazza De Ferrari a Genova, Danilo Calvani, l'agricoltore leader del coordinamento 9 dicembre, se n'è andato in macchina e quest'auto era una Jaguar. La rete non perdona. No. Le critiche sono state tantissime, gli hashtag collegati a questa Jaguar non ne parliamo. Lui ha cercato di spiegare che questa macchina non era sua. Sentiamo come ha spiegato Danilo Calvani. Unionista che abita a 50 km da casa mia, quindi piate il numero della targa e controllate. Ma infatti non c'è niente da rimare, questo è colpibile, cioè criticatemi perché non ho le idee chiare, criticatemi perché sto a fare una cosa sbagliata, perché non la condividete, è legittimo. Questo è un colpo basso, cioè non lo so, questo l'ha preso con Jaguar, ma veniva pure Ferrari, ma sti cavoli, se paga lui che mi frega a me, cioè che devo fare io? Non è un reato, no? Io mi sto spostando dal paese senza soldi, non ho una lira, non mi faccio manco il bidet, cioè chi mi porta mi compare, non c'ho, che devo fare? Che devo fare? Grazie a te, ciao. Avete fatto un colpo basso, non si fa così, dai. Ma avete fatto un colpo basso, non si fa così. Allora, secondo me lui sta cominciando a prendere le misure dei media. È così, i media ripresi dalla rete. Così succede. La rete vive anche di colpi bassi. Del resto si costruiscono movimenti attorno all'idea che la politica abbia fatto dei colpi bassi e quindi noi dobbiamo rispondere in qualche modo allo stesso modo alla politica, però poi dopo, com'è che dicevi prima? Chi di rete ferisce, di rete perisce. Chi di hashtag ferisce. Di hashtag perisce e a volte i tweet finiscono in televisione. Ti piace questo collegamento un po' spericolato? Torniamo alle classifiche. Dai, le classifiche. Perché per avviarci a questa scorpacciata di fine anno di classifiche, già partiamo con la ormai tutti i siti di informazione, proprio colonnini interi di classifiche. Però c'è qualcuno che le classifiche le fa regolarmente da tempo. Una top 10 dei tweet più deliziosi che riguardano soprattutto politici e commentatori. E noi speriamo di finirci presto, così. Con molta paura in realtà. Beh, molta. No, loro se ne parli. Sì, no, poi loro sono veramente deliziosi. Marco da Milano, Davide anche Allegranti. Lui, Marco da Milano, protagonista di hashtag leggendari. Siamo in fascia protetta. Non possiamo parlarne. Gazebo, Diego. Diego Bianchi, Zoro, personaggio nato dalla rete. Sicuramente il personaggio nato dalla rete che ha avuto più successo in televisione. Sì, che è diventato più reale. Che è diventato più reale, più televisivo. Fa questa classifica commentata dei tweet, degli scambi di tweet più deliziosi. Noi ne abbiamo colti un paio dalla trasmissione del 10 dicembre, ci sono piaciuti particolarmente. Cuperlo, Gianni Cuperlo, vuoi ricordare Cuperlo? Dai Gianni, si fa per scherzo. Sono veramente stanco di leggere che le mie decisioni personali e politiche ancora una volta sarebbero etero dirette da altri. Al che Andrea Sarubi insiste e dice: chi te ha scritto il Twitter? Financo Andrea Sarubi, capisci? Cioè, che addirittura crudeltà, si bulla veramente, no. Una roba brutta, Sarubi. Le dirò fatto del podio. Posto sempre contesissimo, oggi va Anna Paola Concia. Mi è venuta un'idea. Melena risponde: mantieni la calma. In questi tempi avere un'idea è una roba impegnativa e responsabile. Buttala via. Beh, straordinario, finale, mantieni la calma, manteniamo tutti la calma, mantenetela. È il finale, sì, perché a quest'ora dobbiamo dare ormai la linea al giornale radio. Abbiamo finito per questa puntata. Però io vorrei sostituire nei miei saluti prenatalizi il grande Sandro Maier con il grandissimo Marco Mengoni. Saluti a Marco Mengoni. Allora, sia il nostro Daniele Bellasio che Valeria Bernardi mi hanno fatto arrabbiare perché Marco Mengoni è bravissimo, è stato uno dei protagonisti del 2013. Basta, anch'io saluto Marco Mengoni. Vi ricordo i nostri account di Twitter: chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, l'hashtag cancelletto RadioTube. E noi ci ritroviamo la prossima settimana. Sì, intanto buon vigilia delle feste.